Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, mi chiamo Domenico e sono un dirigente d'azienda. Per caso ho sentito il suo commento a una lettera che parlava del famoso contratto con gli italiani fatto da Berlusconi, ospite di Bruno Vespa. Alla fine della sua risposta, lei concludeva che comunque Berlusconi era legittimato a governare. Certo che lo è, ma secondo lei è legittimo presentarsi alle elezioni, vincendole quasi sempre, avendo un controllo quantomeno esagerato su televisioni, soprattutto, ma anche giornali, periodici, eccetera, così come avviene in Italia da anni? Secondo lei le varie competizioni elettorali avvengono con parità di potere informativo? Secondo lei è normale avere al proprio fianco persone che per soldi o interesse personale sono costrette a dire in ogni occasione quello che Berlusconi ordina e non quello che il loro cervello elabora? Se queste considerazioni non vengono fatte dal direttore di un organo di informazione al di sopra delle parti, come dovrebbe essere lei, allora vuol dire che in Italia siamo e saremo sempre messi male. Secondo lei questa anomalia tutta italiana ha o non ha il potere di indirizzare verso un partito i voti che lei definisce legittimi? E se la risposta è sì, come si fa a definire un governo legittimo? Domenico. Caro Domenico, una premessa perché è sempre bene ripetere alcuni giudizi. E così ripeto e sottolineo che considero fortemente negativo per la democrazia italiana il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio che controlla direttamente e personalmente molte attività economiche, in particolare nel campo dell'informazione e in quello finanziario. Ma dato che la realtà è quella che è e non è quella che noi vorremmo che fosse e non viviamo nel migliore dei mondi possibili, dobbiamo fare i conti con la concretezza della politica. E la concretezza della politica ci dice che la forza di Berlusconi sta anche nella debolezza dell'attuale opposizione. Per ben due volte, prima nel 96 e poi nel 2006, la sinistra è andata al governo dopo aver legittimamente vinto le elezioni e entrambe le volte i governi guidati da Romano Prodi hanno rassegnato le dimissioni prima della metà del loro mandato. L'analisi politica non può che tener conto di questi fatti. La forza principale del centrodestra sta, mi permetta di dire purtroppo, nella debolezza dei suoi avversari. Ho 31 anni ed ho un giudizio riguardo a Bettino Craxi piuttosto complesso rispetto a semplicistiche valutazioni fatte da molti. Comprendo che per molti Craxi non sia altro che un ladro. Comprendo meno le posizioni di certi politici che si domandano se fossero ladri tutti o tutti innocenti. Comunque sia, i meriti di uomo di Stato di Bettino Craxi sono indiscutibili. Certo, le ombre hanno attraversato anche la sua azione di governo, ma per l'epoca avere un'azione di governo era già un'impresa ardua per qualsiasi politico, anche quando poteva contare su maggioranze incredibili. Era un ladro? Può darsi, ma in fondo mi interessa assai poco. Craxi non ha di certo creato un sistema, ma lo ha solo utilizzato, e assai bene, prima che il sistema stesso crollasse e scaricasse sulla sua imponente, in tutti i sensi figura, responsabilità e colpe collettive. Ciò che a Craxi non potrò mai politicamente perdonare è l'avere trascinato con sé il socialismo e il Partito Socialista nella polvere. Mi spiego. Mi riferisco all'estrema personalizzazione del partito che operò Craxi. Scioglimento delle correnti, una piaga, certo, ma anche una risorsa. Craxi identificò il partito con se stesso e la sua caduta trascinò un secolo di storia del socialismo nella spelonca della storia. Dunque un Craxi spregiudicato statista, politico fine e degno di ammirazione per il modo in cui usava l'arte della politica, un uomo non prettamente integerrimo e un pessimo socialista. Roberto. Scrivo per dire cosa penso di questa storia di Craxi che attualmente riempie giornali e TV. Io penso che non sia giusto intitolargli strade e piazze. Non va separato lo statista dal politico e dall'uomo. Rappresenta quella politica sbagliata e disonesta. Non ha importanza che non sia stato il solo. L'ha rappresentata in pieno, non l'ha contrastata, cosa che ci si aspetterebbe da chi si incarica di una simile responsabilità. Si dice che abbia pagato un duro prezzo. Ha pagato come è giusto che sia. In Italia non siamo molto abituati a vedere la fine dei processi e vedere rispettate le sentenze. Basti vedere come si sta comportando Berlusconi, che fa di tutto per non mettere piede nei suoi processi. Monica, Reggio Emilia. Da giorni si parla ovunque di Bettino Craxi e degli anni in cui ebbe grande potere nel nostro paese. A suo tempo anch'io l'ho votato e non lo rinnego. Certo non mi sento ora di santificarlo e di dimenticare le ragioni per cui fu condannato. Così come ho ben chiaro il discorso che fece in Parlamento e il silenzio con il quale fu recepito. Momento di verità irripetibile e più loquace di mille discorsi. Detto questo, temo che anche questo tardivo ripensamento e tentativo di riabilitazione del suddetto altro non sia che un modo per assolvere tutto e tutti, senza peraltro modificare una virgola nei comportamenti della politica e di coloro sulla quale lucrano. Pessimista? Forse. Ma come si fa a non esserlo? Non vedo niente che mi aiuti a pensare che le cose evolvano al meglio, niente che faccia presagire un qualche cambio di rotta, e non potranno certo essere Berlusconi e i suoi accoliti a darci più certezza del diritto e più moralità nei comportamenti. Tra l'altro mi chiedevo, saltando di palo in frasca, se potesse avere una qualche funzione didattica la programmazione non casuale, a mio avviso, della fiction sullo scandalo della Banca Romana. Confesso che normalmente non seguo questo genere di programmi, ma nell'occasione l'ho vista e l'ho trovata anche molto attuale, soprattutto là dove si concludeva con la condanna di chi aveva sollevato la questione e l'assoluzione di ben 130 tra parlamentari, senatori, banchieri e chi più ne ha più ne metta. In fondo il potere è sempre stato gestito così e a distanza di poco più di 100 anni le cose, come si vede, si sono perfezionate e sempre più intrinsecamente permeate di illegalità. Spero di sbagliarmi. Donata. A proposito dei bamboccioni, io credo che per farli andare a vivere da soli, invece che una legge, basterebbe dare un contributo all'affitto, come per esempio fanno in Francia, per tutti gli studenti iscritti alle scuole e università francesi, stranieri compresi. Monica. Da molti anni le statistiche ci dicono che in nessun paese occidentale i figli restano in casa con mamma e papà così a lungo come in Italia. Perché? Francesca. Caro Fabi, lunedì in prima pagina del Corriere Economia c'era un articolo che titolava «Per pagare il fisco si lavora 4 ore al giorno». Poi l'articolo inizia con queste parole: «Gli italiani, nel 2010, lavoreranno 173 giorni per pagare tasse e contributi». Avrei due domande al proposito. Innanzitutto mi chiedo perché non scrivono «Gli italiani onesti dovranno lavorare 173 giorni per coprire anche i disonesti evasori». Poi mi domando se qualcuno dei professori che si ostina a fare questi conteggi ha calcolato anche per quanto tempo ancora gli italiani onesti continueranno a farsi mungere anche per i disonesti. È uno scandalo che si perpetua e oltretutto la presa in giro te la schiaffano in prima pagina. Rudy. Ho ascoltato la vostra trasmissione dedicata all'analisi del rapporto tra il fisco e i cittadini. Oltre allo statuto del contribuente disatteso, vi sono anche altre situazioni che creano sconcerto nel comune cittadino. Per esempio, il contenzioso tributario. Con il fisco si litiga, è ovvio, ma si dovrebbe ritenere che il superiore interesse collettivo armi saggiamente la mano del tassatore e gli accertamenti, quando necessari, siano quasi a prova di bomba. Invece l'Agenzia delle Entrate perde la maggior parte delle liti davanti alle commissioni tributarie, che sono, si badi bene, gli organi di giustizia tributaria, ma sono nominate da una parte, il Ministero dell'Economia. Tante volte si ha la sensazione che i funzionari dell'agenzia ci provino anche perché il contribuente potrebbe non avere voglia di litigare, perché il contenzioso tributario è complesso, macchinoso, ha tempi ben dilatati, una massa di vertenze impressionante, quasi 1 milione di processi pendenti. Richiede competenze peculiari in quanto i difensori devono conoscere la procedura civile, il diritto privato, il diritto tributario, la tecnica contabile e una buona dose di oratoria. A volte si deve raggiungere un certo numero di accertamenti, la produttività e la loro sorte dopo i 3 gradi di giudizio non è così importante. Ogni anno la Guardia di Finanza espone in termini trionfalistici l'indicazione del fatturato o impunibile accertato, ma tutti tacciono sulla percentuale di queste rettifiche, meno della metà, che superano il giudizio dei giudici tributari. Pur con tutto questo siamo in presenza di un settore un po' opaco, con il fisco che fa grandi sconti pur di non finire davanti ai giudici tributari. Se non impugni un verbale di accertamento, le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/8 del minimo. Dopo la riforma del codice di procedura civile dell'estate scorsa, cominciano a fioccare per l'amministrazione soccombente anche le spese di lite, e questo sta mettendo in allarme l'Agenzia delle Entrate, che con una riforma poco segnalata ha creato una vera e propria direzione generale per il contenzioso, separandola da quella dell'accertamento, sintomo questo di un'attenzione necessaria. Alberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.